ostentando tentazione, surrogato di un'emozione, vestendo di un colore, rosso come il mio sapore, vivendo di parole, comunque sempre scure, non è certo poesia, questa strada di periferia. Per pensare, per capire, overtime, ho bisogno di più tempo per vivere o morire. Stessa situazione, la solita desolazione, sento forte il tuo sudore, che tu consideri amore, è solo tuo divertimento, e poi fuggi come il vento, è triste questa via, è una strada di periferia. Per guardare, per capire, overtime, ho bisogno di pensare, per vivere o morire, overtime, ancora un po' di tempo per guardare, per capire, overtime.